il sesto paese più grande del mondo, un continente multiculturale di oltre 25 milioni di persone. Australia, patria di canguri, barriere coralline mozzafiato e animali stravaganti. Decidiamo di atterrare qui questa volta, nella landa più a sud del globo, chiamata anche The Land Down Under, nomignolo reso noto dallo storico gruppo anni 80 Men at Work, i più forse ricorderanno l'iconica Who Can It Be Now? Tra tutte le particolarità di questo popolo, in cui il barbecue va per la maggiore, noi abbiamo trovato il Jaffle, dove in Australia è sinonimo di panino. Noi potremmo definirlo piuttosto un toast o una tasca di pane, perché la particolarità di questa specialità è che è sigillata ai lati e imburrata per una doratura perfetta. Generalmente viene cotto con un particolare tostapane dalla forma rotonda, ma va benissimo anche il nostro comune tostapane quadrato. Il condimento invece, considerando che online si trovano almeno 50 varianti, è un mix di carne di maiale e formaggio. Anche se non esiste un cocktail universalmente riconosciuto come tipico, in quanto la popolazione predilige per lo più l'espresso martini, noi abbiamo trovato degli esempi di come vengono mixati liquori più conosciuti con prodotti autoctoni. Quindi vi proponiamo una selezione di 3 cocktail che identificano questo enorme continente. Abbiamo prenotato un volo diretto per Sydney. 15 euro il prezzo del biglietto. Il proverbio locale dice: "Go figure". Va a capire. Grazie per l'ascolto.